2025, inizio di questa seconda però parte di stagione del Torrione. Sì, perché come sempre diciamo le nostre stagioni vanno dai primi di ottobre, fine settembre, primi di ottobre fino a circa primi di maggio, metà maggio, e con una pausa meritata al centro, quindi ricominciamo come sempre intorno alla fine di gennaio, nello specifico si riprende il 24 e con la consueta cadenza venerdì, sabato e domenica, un'unica eccezione che sarà quella del giorno di Pasqua dove saremo chiusi, che è domenica chiaramente, e con uno schema che è più o meno quello consolidato dell'ultimo periodo, per cui un'alternanza diciamo tra concerti di particolare rilevanza tra il venerdì e il sabato, ma anche un occhio e uno sguardo alla scena nazionale e anche in un certo qual modo regionale e locale, e le domeniche invece sono diciamo un festival nel festival, una rassegna nella rassegna, che sono dirette dal collettivo Istantanea, tutte quelle di febbraio, marzo, aprile, mentre quelle di gennaio e di maggio andiamo ad ospitare i vincitori dei contest con cui siamo gemellati, per cui Seven Virtual Jazz Club, che è quello diciamo online e internazionale, e quello nazionale di Umbria Jazz, che è il Conad Jazz Contest, ormai diverse edizioni, insomma, quindi è una cosa abbastanza rodata. E infine chiuderemo con una produzione di un nostro partner che è Overstudio Recordings l'11 di maggio, dando spazio appunto anche alle produzioni di terzi, sia quelle dei contest che quelle di Overstudio, ma anche in questa parte di stagione la rinnovata collaborazione con Crossroad Jazz Alto in Emilia Romagna, con un paio di concerti che rientrano nel più ampio cartellone regionale. Si parte tutto all'insegna nazionale, perché abbiamo Domenico Calieri, Fabrizio Bosso, beh, sono musicisti di tutto rispetto, internazionali. No. Certo, c'è spesso un'alternanza appunto tra concerti diciamo di portata nazionale e internazionale e quelli di portata regionale. Poi attenzione, non è che Calieri, Puglisi, Senni e Frattini sono musicisti a livello nazionale conosciutissimi, però tutti diciamo legati anche al territorio. Piaceva cominciare così, con anche la presentazione di un disco nuovo, di un progetto nuovo di Domenico, che era un po' che non veniva. E poi Fabrizio Bosso, quando riusciamo a incrociarlo, lo facciamo sempre volentieri, cercando sempre però di proporre progetti diversi. In questo caso è un trio che è nato come duo ed esteso a trio, che sta promuovendo in questo periodo. E poi partono tutte le varie tournée. Il mese di gennaio infatti è abbastanza scarico diciamo di tour internazionali, invece già da febbraio, marzo, aprile e maggio ce ne sono parecchi, e lì andremo a rincrociare le strade con tantissimi grandi musicisti della scena, soprattutto quella statunitense e newyorkese, ma non solo, anche quella californiana, anche quella brasiliana. Già venerdì 31 c'è il quintetto americano paolista, questo interessante pianista e direttore musicale tra l'altro del gruppo di Ayrton Moreira e Flora Purim, che è Ale Corea, e da lì insomma tanti nomi importanti del panorama nazionale ma anche quello appunto internazionale, per cui cito Pier Annunzi, che torna dopo un po' di tempo a calcare il palcoscenico sempre primo febbraio, e poi tantissimi altri con dei ritorni, dei progetti nuovi, dei vari Kevin Hayes, Ott Talmor, chi più ne ha più ne mette insomma. E poi abbiamo Michael Formanek che ritorna, e poi abbiamo Michael Formanek, poi abbiamo, guarda, te ne cito un po', Craig Taborn che torna in duo con Peter Evans, l'organista Pat Bianchi, alcuni musicisti europei molto importanti come John Asquith, Jure Puckel, il grande trombonista Ray Anderson, torna Ethan Iverson, tante figure importanti del jazz al femminile, tra cui Marta Sanchez, Norma Winston, Chris Davis, che è un organista super interessante che va a chiudere la stagione, e quindi insomma il solito, si riparte, diciamo, sì, la solita alternanza anche di linguaggi, insomma cose più tradizionalmente jazzistiche, cose invece che aprono a linguaggi diciamo talvolta tangenti, soprattutto nel caso di Istantanea, le domeniche di Istantanea, dove c'è uno sguardo anche all'elettronica, alla musica contemporanea e alla sperimentazione. Hai detto all'inizio dell'intervista un po' provati, com'è stato questa fine 2024? Intensa? È stato lungo per il Festival Jazz di Bologna, unitamente alla programmazione del Jazz Club, insomma tantissime produzioni, tantissimi concerti. Questa diciamo parte di stagione è leggermente meno densa, non essendoci appunto la collaborazione col Bologna Jazz Festival, che è così serrata soprattutto nei mesi di ottobre e di novembre. Poi per il proseguo, per il prossimo anno, insomma, dovrebbe essere rinnovata sia quella che tuttora è nata con il Dipartimento Jazz del Conservatorio, che non avevo ancora citato. Il festival, la rassegna del Conservatorio di Ferrara sarà in ottobre, mentre alcune iniziative, soprattutto la jam session dei venerdì e delle domeniche, ma anche quella del 30 aprile, sono iniziative che coinvolgono anche il Dipartimento Jazz del Conservatorio. Tra l'altro gli studenti che partecipano alla jam session, che animano, diciamo, la coda di diverse delle nostre serate, verranno premiati. Adesso non so se sarà una o due borse di studio, lo capiremo anche dai fondi che riusciamo a raccogliere, e il 30 aprile la giornata internazionale del jazz con la o le borse di studio per i seminari internazionali di Siena Jazz, che è la più importante, diciamo, scuola di musica jazz in Italia, che ha questi storici seminari estivi a cavallo tra luglio e agosto.